ti puoi più fermare, ti può solo colpire questa tua realtà. Salire su un treno e viaggiare con la mente, immagini a casa lei cosa farà, ma non guardare indietro, non ti puoi più fermare, ti può solo stupire questa tua realtà. Ferire la tua libertà.